Benvenuti a Il Confronto. Il materiale di oggi, basato su un'analisi direi molto acuta di Marco Guastavigna, ci sbatte in faccia una verità scomoda. Una verità che lui definisce la grande illusione. L'idea, insomma, radicata nel nostro sistema educativo, che si possa insegnare a scrivere senza che chi insegna pratichi la scrittura in prima persona, nel mondo reale. Questo ci porta dritti a una domanda che l'intelligenza artificiale generativa ha reso, non più rimandabile. La crisi della scrittura che tutti percepiamo è il risultato di un fallimento pedagogico che si trascina da decenni, oppure la conseguenza di una rivoluzione tecnologica così dirompente da aver reso i vecchi modelli semplicemente inutili. Io sosterrò la prima tesi. La radice del problema è un'illusione didattica strutturale, una scelta precisa che ha separato l'insegnamento dalla pratica. E io invece, pur riconoscendo i limiti evidenti della nostra didattica, sono convinto che la causa principale non sia lì. Ecco, argomenterò che la vera frattura, lo shock che stiamo vivendo, deriva dalla discontinuità radicale introdotta prima dai dispositivi digitali e ora in modo travolgente dalla Gen AI. È una sfida che secondo me va ben oltre la pedagogia e che ha colto l'intero sistema culturale, non solo la scuola, completamente impreparato. Allora, parto da quella che per me è la tesi centrale, quasi inconfutabile, della fonte. Il problema nasce dall'aver affidato l'insegnamento a chi, per usare le parole del testo, aborriva la redazione di un verbale. In altre parole, a persone che non praticano la scrittura come un'attività quotidiana, funzionale, professionale. E non parliamo di scrivere poesie, ma di saper redigere un reclamo efficace, una richiesta di finanziamento o il verbale di una riunione di condominio, competenze che, insomma, servono a tutti. Questa rimozione ha creato un vuoto che la scuola ha riempito con due strategie didattiche che si sono rivelate, diciamolo, fallimentari. La prima è la scrittura per imitazione della lettura, un modello nobile, basato sui grandi autori, che però ha prodotto generazioni di pensierini guidati. Ricordiamo tutti le tracce, no? Descrivi la tua vacanza estiva. Tracce che premiavano la bella forma, ma raramente ci insegnavano a sintetizzare un articolo complesso o a scrivere un'email di lavoro efficace. La seconda strategia è quella che la fonte chiama scrittura tassonomica, un approccio molto tecnico, quasi da checklist, che scompone il testo in griglie e scopo, destinatario, contesto. Hai pensato al destinatario? Check. Allo scopo? Check. Ma, come dice la fonte, questo approccio non ha trovato riscontro in produzione testuale effettiva. L'arrivo della Gen AI in questo scenario non è la causa della crisi. È un dispositivo rivelatore, uno specchio che ci mostra impietosamente una fragilità sistemica che esisteva da decenni. Il problema per me è interamente e profondamente pedagogico. Guarda, la critica è acuta e in gran parte condivisibile. Non lo nego, però a mio avviso si concentra un po' troppo sul sistema educativo come se fosse un'isola, un sistema chiuso, trascurando l'oceano tecnologico che lo circonda e che, ne erode le coste da anni. La questione non è solo come si insegna, ma il mondo in cui oggi si scrive. Quei modelli che tu critichi, come l'imitazione letteraria, non erano necessariamente un fallimento totale nel loro tempo. Erano forse adeguati a una cultura della stampa, a quello che potremmo chiamare un mondo sulla carta. La vera crisi, la vera frattura, nasce dall'irruzione di una realtà tecnica e cognitiva completamente nuova. La fonte stessa, e questo mi sembra un punto cruciale, parla di plasticità, estensibilità ipermediale, multimodalità, trasformabilità dei dispositivi digitali. E aggiunge che la scuola ha ignorato o banalizzato tutto questo. Ecco, per me questo non è un semplice errore pedagogico. È il sintomo di un cambiamento di paradigma che ha letteralmente travolto un sistema impreparato. L'attuale apnea di fronte alle Gen AI non dimostra solo una didattica fragile, ma testimonia la violenza di uno shock tecnologico esterno per il quale, francamente, nessun sistema educativo era o poteva essere pronto. Un momento. Quando dici che nessun sistema potesse essere pronto, non credi per questo rischi di diventare un alibi? Un modo per giustificare una pigrizia intellettuale che dura da decenni? La rivoluzione digitale non è nata ieri. La fonte è esplicita su un punto che ritengo fondamentale. La fragilità della scrittura scolastica precede le AI. L'incapacità di insegnare a produrre testi funzionali è un problema antico. I computer sono entrati nelle scuole 30 anni fa. Internet è diffuso da 25. Perché sono stati ignorati per così tanto tempo? La scuola ha fatto una scelta precisa. Ha continuato a rifugiarsi nelle tassonomie o nell'imitazione letteraria. Questa non è stata un'imposizione tecnologica, è stata una decisione pedagogica, una scelta culturale. È stata la scuola a decidere di continuare a trattare la scrittura come un oggetto di contemplazione e classificazione, invece che come una pratica da esercitare. Ma è proprio questa la domanda interessante. Perché ha fatto questa scelta? O meglio, è stata davvero una scelta consapevole, deliberata o più un'inerzia del sistema, un'incapacità strutturale di cambiare? Io propendo per la seconda ipotesi. L'incapacità di integrare il potenziale dei media digitali suggerisce un disallineamento molto più profondo. La nostra pedagogia è rimasta ancorata a un modello cognitivo legato alla pagina stampata, lineare, concluso. La tecnologia, nel frattempo, ha creato un ecosistema completamente nuovo per la produzione e la fruizione del testo. Un mondo fluido, ipertestuale, collaborativo. Non è solo un fallimento interno alla scuola, ma l'incapacità di un intero sistema culturale di adattarsi a una trasformazione esterna così radicale e veloce. È un po' come chiedere a un'orchestra sinfonica di suonare musica elettronica senza cambiare negli strumenti né gli spartiti. Il problema non è solo la bravura del direttore, ma l'inadeguatezza dell'intero apparato di fronte a un nuovo paradigma sonoro. Ammetto che la tua metafora dell'orchestra è totente. Mi fa riflettere. Eppure, continuo a pensare che il direttore d'orchestra avesse a disposizione dei sintetizzatori in magazzino da 20 anni e abbia scelto deliberatamente di non usarli perché non sapeva come leggerne lo spartito. La scelta c'era, eccome. E questo ci porta dritti al secondo punto del nostro disaccordo, il cosiddetto creativismo autoreferenziale. Secondo la fonte, questo è diventato il rifugio perfetto per una didattica che non sa come gestire la scrittura funzionale, quella che serve nel mondo. È una fuga verso uno spazio protetto, l'espressione del sé, sganciata da qualsiasi vincolo di efficacia comunicativa. È molto più facile valutare un tema libero sulle proprie emozioni che una relazione tecnica su un esperimento, no. È un sintomo chiarissimo della malattia pedagogica. Dove non so insegnare una competenza tecnica e sociale, la sostituisco con un'enfasi sull'espressione individuale, che è più facile da gestire e quasi impossibile da valutare in modo oggettivo. Si premia l'intenzione, non il risultato. Vedo la questione da un'altra angolazione. Io non leggo questo creativismo solo come una fuga, ma anche come una reazione, per quanto probabilmente maldestra, ingenua, alla pressione tecnologica. Pensa al mondo in cui vivono i ragazzi. Un'epoca dominata dalla tecnica, dalla standardizzazione, da interfacce che guidano ogni loro interazione. In questo contesto, il rifugio nell'espressione del sé può essere interpretato come un tentativo di difendere uno spazio percepito come unicamente umano, per la scrittura. È un tentativo, forse disperato, di preservare ciò che si crede la macchina non possa fare, l'emozione, l'originalità, l'interiorità. Quindi non lo vedo solo come una scelta pedagogica interna, ma come una conseguenza della pressione tecnologica esterna. È una risposta, per quanto inadeguata, alla percezione crescente che la scrittura tecnica e funzionale sia sempre più un dominio delegabile alle macchine. Ma questa reazione, come la chiami tu, ha avuto conseguenze disastrose, e la fonte lo sottolinea bene. Ha portato a banalizzare proprio gli aspetti più potenti dei dispositivi digitali. La plasticità, la multimodalità, la possibilità di cooperare su un testo. Invece di usare la tecnologia per potenziare la scrittura, per renderla più ricca e collaborativa, l'abbiamo relegata a semplice sostituto della macchina da scrivere, una carta digitale. Nel frattempo, la scrittura vera, quella con la S maiuscola, si rifugiava in questo spazio espressivo sterile e isolato. E questo ci porta al cuore del problema di oggi, il ruolo della Gen AI. Per me la fonte è chiarissima quando usa le metafore di specchio e dispositivo rivelatore. La Gen AI non crea il problema, non è la causa della malattia. Si limita a renderla visibile in un modo che non possiamo più ignorare. Riflette le crepe profonde preesistenti nella nostra concezione della scrittura. Ci mostra senza pietà che per decenni abbiamo insegnato una performance scolastica, non una pratica di vita. Capisco il tuo punto, ma c'è una differenza fondamentale tra uno specchio e una tempesta. Uno specchio si limita a riflettere passivamente un'immagine, una tempesta invece rimodella attivamente il paesaggio. Per me la GNI è una tempesta, non è solo uno strumento che rivela le nostre debolezze, è una forza che cambia radicalmente le regole del gioco. Trasforma il processo stesso di produzione del testo, pensa cosa significa per un avvocato, un medico, un ingegnere. Una tempesta non si limita a mostrarti che la tua casa ha delle crepe, ti costringe a ricostruirla con materiali e tecniche diverse, perché le vecchie non sono più adeguate. Una mutazione indotta, però, non spontanea, e che rivela una debolezza pregressa. Se le fondamenta della casa fossero state solide, avrebbe resistito meglio alla tempesta. Ma ogni grande tecnologia induce mutazioni. La stampa non ha fatto lo stesso con la cultura amanuense. La GNI non ci dice solo «insegnate meglio a scrivere». Ci dice «il modo in cui si producono documenti legali, referti medici, codici di programmazione sta cambiando per sempre». Come osserva la fonte, se la scrittura è concepita come un prodotto finale, un tema da consegnare, l'intelligenza artificiale appare come una minaccia totale. Questo indica che non stiamo solo vedendo un vecchio problema con una lente di ingrandimento. Stiamo affrontando una trasformazione dell'atto stesso dello scrivere, imposta dalla tecnologia. La GNI è una forza attiva, trasformativa. Rende possibile la scrittura senza il pensiero della stesura, o meglio, sposta il baricentro del lavoro cognitivo dalla generazione della bozza alla sua revisione, alla curatela, all'integrazione con altre fonti, al fact-checking. Questa è una mutazione cognitiva profonda, non solo una rivelazione pedagogica. Beh, la discussione di oggi non fa che rafforzare la mia posizione. L'incapacità di rispondere alla GNI non è che il sintomo terminale di una malattia antica. La scelta deliberata o l'inerzia strutturale di insegnare un'idea astratta di scrittura invece di una pratica concreta, situata e, diciamolo, faticosa. La tecnologia è cambiata, certo, ma il nostro fallimento nel preparare gli studenti a una pratica di scrittura autentica, flessibile e consapevole è la vera causa dell'attuale apnea. La soluzione, quindi, non può che essere un ripensamento radicale della didattica dalle fondamenta. E la fonte ci dà indicazioni precise. Meno classificazioni e griglie, più iterazioni e riscritture, meno simulazioni astratte, più contesti reali e problemi autentici da risolvere con la scrittura, meno enfasi sull'espressione individuale fine a se stessa, più attenzione alla responsabilità testuale e all'efficacia comunicativa. E pratichiamo l'insegnamento. Guarda, pur concordando pienamente sulla necessità di riformare la didattica in quella direzione, e credo che su questo non ci sia discussione, emerge con forza ancora maggiore che stiamo affrontando un cambiamento tecnologico senza precedenti. I vecchi modelli non sono inadeguati solo perché erano intrinsecamente imperfetti, ma perché il terreno stesso su cui poggiavano, il paradigma della produzione individuale del testo, è completamente franato. La sfida non è solo correggere gli errori della pedagogia del passato, ma comprendere e governare una nuova realtà cognitiva e tecnica. Una realtà in cui la scrittura è, e sarà sempre di più, un'attività distribuita tra uomo e macchina, un dialogo costante con sistemi intelligenti. Non possiamo limitarci a riparare la vecchia casa, sperando che resista alla prossima tempesta. Dobbiamo imparare a progettare, costruire e abitare in un mondo completamente nuovo, dove scrivere significa anche saper interrogare, guidare e verificare criticamente l'operato di un AI. Su un punto credo siamo perfettamente d'accordo. L'analisi sollevata dalla fonte è cruciale e non più rimandabile. Ha messo il dito in una piaga che per troppo tempo abbiamo finto di non vedere. Assolutamente. Che la causa principale sia un'illusione pedagogica di lunga data o uno shock tecnologico travolgente, o più probabilmente un intreccio delle due cose, l'intelligenza artificiale ci costringe a rinegoziare radicalmente cosa significa scrivere e, di conseguenza, cosa significa insegnarlo. La via d'uscita richiede, come suggerisce il testo, di restituire alla scrittura il suo statuto di pratica complessa, cognitiva, tecnica e profondamente sociale. Un tema che senza dubbio merita ulteriore e continuo approfondimento.